Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Ciao Deborah. Buongiorno, intanto mi stavo sistemando il microfono, anzi microfono, la cuffia. Pulsantini. Sì, regia c'è? Sì, c'è Assistenti Carmelo. Assistenti li abbiamo? Carmelo che si è mangiato anche un cosa piccolo mangiato? Biscotto prima della per lui è sempre compleanno, perché smangiucchia sempre la mattina, no. Saremo noi che... Gliel'abbiamo portato noi, intanto per raccontare i fatti suoi, avevo un languorino, noi siamo andati giù alla macchinetta a prendere il caffè e allora abbiamo preso l'applausometro anche... è partito per noi, abbiamo vinto un libro della libreria di Cuore e Denari. Comunque, allora, i temi ci sono, sono già le 10:37, mancano della serie Piatto Ricco Mici Ficco, partiamo! Via! Mi rubo la prima parte della nostra rassegna stampa, Nicoletta. Allora, intanto ti racconto che la borsa, senti qua, Wall Street continua a correre, insomma il mercato brinda alle promesse di Trump. Ieri Wall Street ha chiuso con un nuovo rialzo, sul Dow Jones più 0,35%, magari a livello percentuale a molti questo dato non dirà nulla, ma dirà molto il fatto che l'indice appunto americano ha chiuso per la prima volta nella storia sopra i 19.000 punti e anche lo Standard & Poor's ha superato il muro dei 2.200 punti, soglie tecniche che vengono guardate con grande interesse dagli investitori e dagli analisti finanziari. Continua dunque questo effetto post-elettorale legato appunto alle promesse del neopresidente Donald Trump, l'euro ieri è riuscito a recuperare qualcosina sul dollaro, 1,0608. Stamattina il Giappone era chiuso per festività, l'Europa cosa ci dice in questo momento? Ci dice che gran parte degli indici sono moderatamente positivi, Parigi più 0,06%, Francoforte sulla parità, Londra guadagna lo 0,6% e Milano che fa? Oh, è negativa, meno 0,8%. Perché? Perché scendono tutti i titoli bancari, ancora una volta, tanto per cambiare, così un tema a caso, uno nuovo. Pop Milano e Banco Popolare meno 5, oggi una lunga indagine inchiesta sul Sole 24 Ore racconta un po' tutte le problematiche legate alla difficile aggregazione per queste due banche, che deve essere finalizzata entro la fine dell'anno per essere operativa dal 1 gennaio, ma insomma le incognite non mancano. Monte dei Paschi meno 4 punti, domani un'importante assemblea degli azionisti, stamattina il gruppo ha diramato su richiesta della Consob un comunicato in cui dice di non avere allo studio nessun piano B nel caso in cui il piano di cessione delle sofferenze e l'aumento di capitale non dovessero andare in porto. E per allungare la lista delle notizie positive abbiamo un andamento negativo per Generali, meno 3,4%, il gruppo sta presentando il suo piano industriale a Londra, l'Investor Day, ha confermato i target per il 2018, non ci sono piani di ristrutturazione del personale ipotizzati, la smentita da parte dell'amministratore delegato Donné è arrivata categorica stamattina da Londra, c'era proprio questa in realtà anticipazione, questa notizia che era pubblicata stamattina al Sole 24 Ore, ma è stata appunto smentita dai vertici. Non ci sono piani di ristrutturazione, mai parlato di tutte queste migliaia di esuberi dei quali si parla sul giornale. Vorrei mantenere l'attenzione sul tema bancario, Nicoletta, perché oggi c'è un compleanno. Dai. Vuoi sapere da parte di chi? Sì. Vediamo se accendiamo le candeline. Te le ricordi le quattro banche risolte un anno fa? Un anno fa, il 23, era lunedì e noi iniziavamo la giornata con questa pessima notizia. La domenica del 22 il governo aveva varato il famoso decreto salvabanche. Era stato un weekend a dir poco drammatico in cui la Commissione europea, la Banca Centrale Europea e il governo avevano trovato un difficile accordo per il salvataggio appunto delle quattro banche sull'orlo del fallimento, Banca Marche, Etruria, Cariferrara e Carichieti. Da quel famoso decreto salvabanche, che per la prima volta in Italia ha applicato il meccanismo di risoluzione europeo ma non il bail-in, a che punto siamo? Lo chiediamo a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. I temi non ti mancano di cui scrivere, sul Sole oggi ti dedichi ad un'altra difficile partita, quella della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, 600 milioni sul piatto per gli ex azionisti, se abbiamo tempo Marco parleremo anche di questo, ma raccontaci un po', ad un anno dal salvabanche, cosa successe e a che punto siamo oggi? Ma siamo ancora a mezza via, diciamo così, nel senso che le banche, diciamo, c'è un bicchiere mezzo pieno e un bicchiere mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo pieno è che le banche di allora non ci sono più, perché Banca Marche, Popolare Etruria, oggi si chiamano Nuova Banca Marche, Nuova Popolare dell'Etruria. Questo vuol dire che l'operatività è proseguita senza problemi, i clienti non hanno visto chiudere gli sportelli, i bancari non hanno visto perdere il lavoro. Chi stava pagando il mutuo sta continuando a pagarlo, naturalmente. Esatto. E questo, quindi, diciamo che la messa in sicurezza di quelle che sono le attività fondamentali è riuscita. Il problema è che il prezzo è stato molto alto, sia da parte degli obbligazionisti, quindi parliamo di risparmiatori, c'erano 800 milioni di obbligazioni subordinate, di cui la metà nelle tasche di piccoli risparmiatori, che si sono visti azzerare i risparmi investiti in quei titoli. Sta prendendo piede la procedura per i rimborsi, circa 80% forfettari, ma ci vorrà del tempo. Per ora, appunto, sono stati rimborsati solo 15 milioni. E infatti di questa circostanza si sono molto di nuovo lamentati questi risparmiatori. Ieri hanno manifestato davanti alla sede della Banca d'Italia a Roma, contestando proprio il fatto che al momento i rimborsi riguardano solo una piccola fetta di risparmiatori traditi, mentre non si sa ancora nulla del famoso arbitrato in seno all'ANAC, l'autorità anticorruzione, che dovrebbe risarcire tutti gli altri, quelli che non possono, appunto, esperire all'attività del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Marco? Esatto. E poi c'è l'altra bolletta molto salata per le banche sane, perché qualcuno ricorderà, un anno fa hanno staccato un assegno da circa 2 miliardi, questo per ricapitalizzare immediatamente le due banche, ma sul salvataggio c'è ancora un maxi prestito da 1.600 milioni che si pensava un anno fa di poter rimborsare alla vendita sul mercato delle quattro banche. Il problema è che in questo momento le banche sul mercato non le vuole nessuno, probabilmente finiranno almeno tre di queste a UBI, che però per prendersele non solo vuole pagarle zero, ma le vuole anche ricapitalizzate. Esatto. Quindi si parla di una cifra fra i 400 e i 600 milioni di euro, letto male? Marco? Esatto. Quindi in sostanza per le banche sane ai 2 miliardi circa spesi l'anno scorso se ne aggiungeranno almeno altrettanti per chiudere la partita. Certo. Quindi diciamo che mal contate ad oggi si può dire che quel salvataggio, tra quello che si è già pagato e quello che si pagherà, è costato circa 5 miliardi. Quasi mezza legge di bilancio. Allora, tra l'altro, UbiBanca è interessata, tra le quattro, appunto, le tre che ha citato, sono Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti. Perché Ferrara non la vuole? Ferrara non la vuole perché delle quattro è quella probabilmente messa meno bene, nel senso che non dimentichiamo che Cassa Ferrara è stata la prima a essere commissariata, quindi di fatto è bloccata da due o tre anni. Probabilmente, se tutto, diciamo, nella migliore delle ipotesi, Cassa Ferrara insieme ad altre banche sempre della zona, parliamo delle casse di Cesena, Rimini, dovrebbe finire forse a Cari Parma, di nuovo previa ricapitalizzazione a carico delle banche sane. Quindi quella è un'altra partita, ma il destino potrebbe essere non molto diverso. E allora avremo tanti argomenti di cui discutere con te prossimamente. In 30 secondi, se ce la fai, Marco, raccontaci invece quali novità ci sono in vista possibili per gli ex azionisti Popolare Vicenza e Veneto Banca. Sì, in questo caso parliamo di 100.000 azionisti che si sono visti, ne abbiamo raccontato tante volte, azzerato praticamente a valore delle azioni. Le banche stanno cercando di ripartire, gli azionisti sono anche clienti, quindi le due banche, Popolare Vicenza ma anche Veneto Banca in parallelo, anche perché forse si sposeranno, stanno partendo con questa azione risarcitoria che dovrebbe, come scriviamo oggi, riportare nelle tasche degli azionisti circa 600 milioni. Quando lo sapremo con certezza se questo piano di rimborso parte? A giorni, l'idea è di partire a metà di dicembre. E allora, insomma, siamo al buono. Siamo pronti con una nuova trasmissione anche nei prossimi giorni. Marco, grazie molte per il punto della situazione. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane, per poi parlare, Nicoletta, di che cosa? Beh, parliamo di un tema di grande attualità. Parliamo di vaccinazioni, parliamo del caso del bambino ricoverato al Meyer di Firenze e anche del passo avanti che ha fatto l'Emilia Romagna verso l'obbligatorietà dei vaccini. A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. E siamo tornati insieme per la rassegna stampa di cuore. Come anticipato, andiamo in Toscana. Avrete sicuramente letto tutti la notizia di un nuovo caso di meningite di tipo C che ha coinvolto un bambino piccolo di 8 anni di Livorno, che si trova oggi all'ospedale Meyer di Firenze. Questa mattina, tra l'altro, noi abbiamo parlato con l'ufficio stampa che al telefono ci ha detto che il bambino sta meglio. Questa è una bella notizia. E intanto diamo subito il buongiorno e il benvenuto al professor Roberto Burioni, medico ordinario di microbiologia e virologia all'Università San Raffaele di Milano e autore de Il vaccino non è un'opinione, Mondadori. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debola, vi ringrazio davvero di cuore per l'invito. Grazie. Professore, questa è una buona notizia. Il bambino dell'ufficio stampa ci ha detto che sta meglio. È una buona notizia perché, e lo sappiamo bene, vogliamo sottolinearlo oggi, la meningite di tipo C è una malattia grave, pericolosa, che può lasciare sequele importanti. Partiamo da qua, professore. Sì, purtroppo la meningite causata dal meningococco di tipo C è una malattia molto pericolosa. È molto pericolosa perché è difficile da diagnosticare. All'inizio si presenta con dei sintomi non troppo dissimili da quelli di un malanno comune dell'infanzia, febbre, malessere e via dicendo. Però poi purtroppo le cose precipitano. E anche in presenza di una diagnosi pronta ed una terapia tempestiva, purtroppo questa malattia ha una prognosi che non è molto buona, perché in circa il 10% dei casi purtroppo i bambini non ce la fanno e in altri casi riportano delle sequele permanenti. E quindi quella del bimbo che sta meglio è una notizia veramente fantastica. Questo ci ricorda che, siccome la terapia di queste malattie non è così efficace come vorremmo, dobbiamo prevenirle. Per prevenirle, per fortuna, abbiamo un vaccino molto efficace. Che tra l'altro abbiamo anche un'esperienza, quella del Regno Unito, dove nel 98 è stato introdotto il vaccino contro il meningococco di tipo C e dove si è raggiunta velocissimamente un'alta copertura. Sì, l'esperienza del Regno Unito è un'esperienza che è stata davvero sorprendente, perché molto spesso i vaccini hanno un'efficacia superiore a quella che noi ci immaginiamo. Nel Regno Unito è stato proprio questo il caso. Nel 1998 è stata introdotta la vaccinazione a tappeto di tutti i bambini e degli adolescenti, con una adesione fortissima. Purtroppo da noi non succederebbe perché abbiamo gli antivaccinisti, ma in Inghilterra si sono vaccinati quasi tutti. Bene, dopo 10 anni non solo la malattia è scomparsa tra i bambini e i giovani vaccinati, ma è scomparsa anche nella fascia d'età tra i 25 e i 65 anni, persone che non erano state vaccinate. Quindi il modo migliore per difenderci da questa malattia, bambini ed adulti, è vaccinare tutti quanti i bambini, perché sono il serbatoio di circolazione evidentemente di questo batterio, e quindi vaccinandoci tutti rendiamo, come succede spesso con le vaccinazioni, non solo protetti i bambini ma anche la nostra comunità molto più forte. Infatti nel suo blog lei scrive: se tutti si vaccinano alla fine vacciniamo di meno. Eh sì, questa è una cosa che non è scontata delle vaccinazioni. Noi non ci vacciniamo più contro il vaiolo perché è scomparso, ci siamo vaccinati tutti, è scomparso, non si vaccina più nessuno. E potremmo fare scomparire la poliomielite e a quel punto non si vaccina più nessuno perché il virus non esiste più nel mondo. È vero purtroppo anche il contrario, che se smettiamo di vaccinarci, virus che non sono spariti come quello della poliomielite ritornano e saremmo costretti a usare di nuovo vaccini più efficaci ma purtroppo meno sicuri, come abbiamo fatto fino a qualche decennio fa. Professore, dalla Toscana andiamo in Emilia, dove la Giunta regionale ha approvato il progetto di riforma dei servizi educativi per la prima infanzia, e questa norma introduce un nuovo requisito per poter frequentare gli asili nido pubblici: i bambini dovranno essere vaccinati. Questo è un passo sicuramente molto importante e un messaggio forte e chiaro. Professore. Sì, è un messaggio forte e chiaro ed è secondo me una giornata storica e una decisione cruciale, perché al di là dell'efficacia concreta, che purtroppo tra i vaccini obbligatori non sono inclusi alcuni fondamentali come quello contro il morbillo, per dirne uno, però è la prima volta che una istituzione importante sancisce il fatto che la vaccinazione non è un atto di protezione individuale del proprio figlio, ma è un atto di responsabilità sociale, come il non guidare ubriachi, come il non fare qualcosa che può mettere in pericolo gli altri. Quindi è una giornata molto importante, io sono molto felice che questo sia successo e spero che sia ad esempio anche per altre regioni, perché altre regioni che invece hanno preso la direzione opposta, quella della rimozione completa dell'obbligo, non hanno avuto risultati. Ecco, lei si riferisce al Veneto? Sì. Ecco, dove non c'è l'obbligatorietà e i dati ci dicono che è stata una scelta che ha portato un ulteriore calo delle vaccinazioni, professore? Perché adesso poi... è difficile dire se questo calo di vaccinazione è dovuto a questa scelta o meno. Quello che è certo è che mentre la scienza ci dice con certezza che i vaccini sono efficaci e sicuri, purtroppo noi non abbiamo altrettanta certezza su qual è il modo pratico per fare vaccinare le persone, anche perché quello che funziona in un paese può non funzionare nell'altro. E io ritengo che sia molto importante che lo Stato difenda i più deboli e i bambini che vanno al nido, che per esempio ancora non si sono potuti vaccinare, sono deboli. E io ritengo che sia molto positivo il tipo di legge che ha approvato l'Emilia-Romagna, spero che anche altre regioni seguano questo esempio. Vorrei leggerle l'SMS che ci arriva da Elisa, che se ci sono tutti questi problemi per la mancanza di vaccinazione, perché è stata data libertà di scelta? Dove erano i medici a quei tempi? Questa è la premessa, e ci chiede: se ho vaccinato mia figlia di 6 anni, quanto dura la copertura e a quali ceppi di meningite si consiglia di vaccinare? Questo è allora, il messaggio di Elisa. Sinteticamente, professor Burioni? Molto sinteticamente, la copertura varia per ogni vaccino. E la vaccinazione è un atto medico che deve essere discusso col proprio medico. Noi abbiamo dei vaccini molto efficaci per i principali ceppi di meningite. I più frequenti in Italia sono B e C. Fortunatamente abbiamo un vaccino per entrambi. Quindi possiamo proteggerci contro quelli che sono una minaccia più concreta nel nostro paese. Professore, chiudiamo. Anche volevo ricordare ai nostri ascoltatori che lei è un medico che risponde anche su Facebook. Sì, rispondere poco perché non ho più tempo, però do delle informazioni. Dà delle sì. informazioni. Un nostro amico, Francesco, il piastrellista, che ci segue, ci scrive tantissimo, con frequenza. Ma per i bambini che abitano a Genova, cosa bisogna fare? Vaccinare o no? Non è un problema di luogo, di città. Professore, 30 secondi. No, per i bambini che stanno a Genova, che stanno a Cantù, che stanno a Cefalù, che stanno a Bari o dovunque altro, bisogna assolutamente vaccinarli. Io una bambina di 5 anni l'ho vaccinata e il rischio maggiore lo si corre in automobile da casa allo studio del medico. Bisogna vaccinare i propri bambini. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e buona giornata anche a voi, grazie agli ascoltatori. Noi andiamo a sentire che cosa dice il giornale radio, ma ce la facciamo ad anticipare i nostri temi più dopo, allora, così teniamo i nostri ascoltatori. Niente. Velocissima, allora ci sarà la giornata nazionale del Parkinson, ne parleremo tra poco. Io invece parlerò delle polizze di tutela legale. Che cosa sono queste polizze misteriose? Restate con noi. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi a Cuore e Denari e anticipiamo la giornata nazionale della malattia di Parkinson promossa dall'Accademia Limpe Dismo. Ne parliamo oggi perché si celebrerà sabato. E sabato non siamo in onda, Deborah. Eh no. E quindi vogliamo sottolineare l'importanza di questo appuntamento che è giunto alla sua 8ª edizione e che anche quest'anno si propone di sensibilizzare ed educare anche la popolazione su questa malattia neurodegenerativa che nel nostro paese interessa. Vi do alcuni dati: circa 250.000 persone, di cui una buona parte in età lavorativa. Ma sappiamo anche che il numero è destinato a crescere nei prossimi 15 anni. Abbiamo aperto con le note del boss, cara Deborah, perché alla giornata nazionale Parkinson aderiscono anche le associazioni pazienti e Life of Day è una fondazione che organizza in tutto il mondo concerti, eventi del calibro con personaggi del calibro del grande Bruce Springsteen. In ogni paese comunque voglio darvi anche questa indicazione di denari che so che piace molto alla nostra amica, della certo, nostra donna di denari, sono qua per questo. Che in ogni paese metà dell'incasso degli eventi musicali è devoluto proprio a un'associazione locale che si occupa della malattia. Quindi anche gli eventi musicali, l'arte, la musica possono aiutare la ricerca. Per l'Italia è stata scelta la Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus. Vi ho detto tutto, ma vorrei aggiungere che quest'anno l'Accademia, in partnership con Abbi, ha scelto proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso un'iniziativa molto bella che si chiama Parkinson Play. Una iniziativa che ha coinvolto dei giovani creativi perché realizzassero uno spot in grado di sensibilizzare le persone e trasmettere un'idea nuova della gestione della malattia. E quindi un nuovo modo di comunicare la salute. Di tutto e di più parleremo oggi con l'ospite che abbiamo il piacere di avere in linea, il professor Pietro Cortelli, professore di neurologia all'Università di Bologna, direttore del programma Parkinson all'ASL di Bologna, ospedale Bellaria. Buongiorno professore, bentornato, sono contenta di averla in linea con noi. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora. Allora professore, non le chiedo di Bruce Springsteen, che comunque immagino apprezzerà anche lei. Molto, ci piace, vero? Ma di chiederle di, questa è l'occasione per così mettere un po' a fuoco gli elementi chiavi da conoscere quando si parla di Parkinson, una malattia di cui sappiamo, abbiamo tutti un po' paura e che spesso pensiamo interessi solo le persone avanti negli anni, ma i dati ci fotografano una situazione diversa. Ci aiuta a capire qualcosa di più? Insomma, dal punto di vista clinico, diciamo che i sintomi che fanno partire il sospetto di questa malattia sono un po' legati, diciamo, nell'immaginario collettivo al tremore. Però, per esempio, questo è il primo dato che viene fuori: il tremore è una parte sicuramente importante, ma non assoluta. E ci sono altri disturbi motori che possono essere l'inizio di questa malattia, alcuni di giorno per esempio, oppure alcuni anche di notte. Però il concetto è che la malattia ha come fattore di rischio più importante l'età. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nel fisiologico invecchiamento cerebrale a cui tutti andiamo incontro nel corso degli anni, ci sono dei meccanismi che a un certo punto accelerano una determinata alterazione di alcune cellule nervose piuttosto che di altre. Questo in pratica è la maniera per cui compaiono delle malattie del sistema nervoso centrale che oggi sono riconoscibili dal punto di vista clinico, perché sappiamo che quando la lesione colpisce questo particolare punto del cervello, stiamo parlando di una zona che è conosciuta dai tempi di Charcot, quindi dal fine 1800, come sostanza nera, perché dalle prime autopsie appariva di questo colore. Bene, quando queste cellule sono ridotte di numero, abbiamo la comparsa di un disordine del movimento che è caratterizzato dalla lentezza, dalla rigidità e dal tremore. Questo era già stato individuato dal dottor James Parkinson, da cui poi deriva il nome della malattia, di cui quest'altro anno ricorre il 200° anno di pubblicazione del suo libro famoso, libro in cui lui descriveva sostanzialmente 6 pazienti, di cui 3 erano proprio suoi e 3 erano persone che lui aveva visto per strada, aveva studiato proprio dal punto di vista motorio attraverso l'osservazione di come questi camminavano per strada dal suo ambulatorio nel nord di Londra. Bene, in questi 200 anni chiaramente si è capito tantissimo. Dagli anni 60 si è capito che per sostituire l'effetto che queste cellule della sostanza nigra diminuite non hanno più, è necessario introdurre una sostanza che si chiama levodopa, e questa ha creato chiaramente un'apertura importante nella terapia dei sintomi. Ricordo che è stata poi celebrata anche nel famoso film di De Niro, Risvegli, no? Certo. Dove De Niro fa una prestazione eccezionale nel mimare le varie fasi della malattia di Parkinson, devo dire. Comunque, in questa situazione noi abbiamo la possibilità oggi di sostituirci, di migliorare la trasmissione di questa sostanza chimica che si chiama appunto dopamina attraverso tante possibilità farmacologiche. Fortunatamente non abbiamo più solo la levodopa, ma abbiamo un armamentario molto, molto più ricco. Quindi la qualità di vita del paziente è indubbiamente migliorata negli anni perché le terapie sono più efficaci. Conoscete meglio la malattia e riuscite quindi a migliorare la gestione. 800 24 0024 per intervenire in diretta, per raccontarci la vostra esperienza, ma anche per trovare risposta a un vostro dubbio, per avere chiarimenti. Professore, ci sono dei sintomi che anticipano il Parkinson anche di molti anni, è corretto? È corretto, cioè nel senso che più naturalmente si studiano delle coorti grandi di pazienti in maniera, come si dice in gergo, prospettica, cioè si seguono nel tempo in maniera regolare, sia clinicamente che con degli esami, si scoprono che i pazienti anni prima avevano avuto dei disturbi anche minimi che magari appunto non erano stati presi in considerazione. Ora, elencare questi disturbi non ha molto senso perché poi ci allarma, certo c'è questo. Si crea un allarme che non ha senso perché sono sintomi comunissimi che da soli non vogliono assolutamente dire che questo signore sano diventerà poi un paziente. Però è interessante nell'altro senso, cioè che i pazienti abbiano precedentemente questi disturbi, perché la gara è quella di trovare un algoritmo, quindi una maniera di mettere insieme delle sindromi che precedono l'effetto motorio, che ci permettono di usare finalmente delle cure, come si dice, che modificano l'evoluzione della malattia o addirittura, diciamo, come molti sperano, che possono bloccare l'inizio della malattia. Io dico sempre che naturalmente potremo ridurre questo acceleramento dell'invecchiamento fisiologico, ma noi non saremo in grado, penso, a breve di influire in maniera così importante nell'invecchiamento stesso, cioè, nel senso che l'invecchiamento è un effetto diciamo fisiologico, certo, che dobbiamo in qualche modo accettare. Ci sono tanti studi ovviamente che ci dicono che possiamo in qualche modo ridurre l'impatto dell'invecchiamento, però oggi come oggi, naturalmente, questo è da accettare. Quello che potremmo fare è ridurre l'acceleramento dovuto alla malattia. Professore, ci sono delle persone più a rischio, dei comportamenti preventivi al tempo stesso che possono in qualche modo regalarci una sorta di protezione, lo metto tra virgolette, così rispondiamo ad alcuni sms. No, la protezione dalle malattie neurodegenerative è la stessa che, diciamo, ha a che vedere con la protezione e il ritardo dell'invecchiamento, cioè sì, muoversi e nutrirsi bene, quindi stile di vita. Sostanzialmente i famosi 150 minuti alla settimana consigliati dall'OMS, che non sono di attività fisica moderata, quindi vuol dire aerobica, quindi non vuol dire andare al maratone di New York, questo è sicuramente una cosa che deve entrare nel nostro modo di vivere assieme a un'alimentazione che sia sana. E noi siamo fortunati perché non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, non professore. Abbiamo che l'imbarazzo della scelta, è vero. È vero. Magari noi qui a Bologna invece, insomma, dovremmo ridurre un pochettino i grassi, però in generale l'alimentazione mediterranea è quella migliore. Però dobbiamo anche andare verso un'altra direzione, che è quella dell'ipocalorico, nel senso che deve essere sana, ma le calorie devono essere leggermente meno di quelle che, diciamo, standard. E questo è sempre più difficile, perché in realtà quando noi oggi pensiamo di mangiare poco, andiamo a misurare le calorie, abbiamo delle sorprese. Professore, c'è un messaggio che arriva da Cristina da Genova che ci chiede: può il Parkinson essere indotto da farmaci e fermarsi ma non regredire dopo la sospensione? Dunque, la domanda è molto pertinente. Se ci sono dei farmaci che riducono la produzione della levodopa, io ho una manifestazione clinica che assomiglia al Parkinson, ma non è dovuta a una riduzione intrinseca di quelle cellule, quindi la colpa è del farmaco che impedisce alle cellule sane di produrre levodopa. Io tolgo il farmaco e nel tempo, però ci vuole a volte anche 7-8 mesi perché queste cellule possono riprendere, dipende un po' dal tipo di farmaco che blocca la produzione della levodopa e nel tempo appunto si ritorna alle condizioni di normalità. Se invece la situazione è mista, cioè quella che si dice piove sul bagnato, cioè il farmaco va a peggiorare la produzione di dopamina che è già criticamente ridotta perché c'è già sotto una situazione diciamo di malattia, allora se tolgo il farmaco non torno chiaramente alla condizione precedente, ma tolgo solamente un fattore aggiuntivo a una malattia magari presente in maniera subclinica. Non so se sono stato... No, è stato chiaro, no. Vero Deborah? Mi sembra... Guarda, noi, se è chiaro sì. Per me dire no, che... No, perché no, io e Deborah ci utilizziamo un po' come test reciproci. Reciproco. Quando vede Deborah che io strabuzzo gli occhi di fronte magari ad un'affermazione o una spiegazione del suo esperto, capisce che allora è il caso di intervenire. Vogliamo salutare Yuri Checchi, che è in linea con noi. Ciao Yuri. Ciao, buongiorno a tutti. Amico ciao, di Cuore Denari. Moltissimo, grandissimo amico. Sì. Che anche quest'anno... è testimonial della giornata. Yuri, quest'anno tra l'altro una giornata che mette sottolinea quanto non sia necessario essere dei supereroi per affrontare il Parkinson, ma sicuramente ci vogliono delle doti che possiamo definire una sorta di resilienza che è tipica dei campioni come te, dei grandi campioni, perché ci vuole determinazione, coraggio, ottimismo, perseveranza, voglia di affrontare le cose con un atteggiamento costruttivo. Sì, è così, hai detto bene. Diciamo che anche lo sport, soprattutto se vuoi fare uno sport ad alto livello, ti mette di fronte a delle prove che non hai preventivato, no? E quindi devi affrontarle con le caratteristiche che hai detto tu, con grande determinazione, con grande forza, con la consapevolezza che ci sono delle forze, delle risorse per affrontare la problematica e convivere e andare avanti. Certo, hai detto bene te, non bisogna essere degli eroi, bisogna avere molta forza, questo è evidente, però lo sport aiuta molto e io devo dirti che però ho avuto anche grandi insegnamenti e delle esperienze meravigliose che ti hanno insegnato i malati che tu hai incontrato. Assolutamente, mi hanno veramente reso un uomo più forte sotto questo aspetto, li devo ringraziare e mi piacerebbe insomma dare un piccolo contributo come sto facendo l'anno scorso, quest'anno. Io rispetto al professor Cortelli, che saluto, e a tutti quelli che veramente giornalmente aiutano davvero questi malati, faccio poco, però anche sensibilizzare, far capire che ci si può fare, che se ci credi fino in fondo davvero ogni sogno è realizzabile, è possibile, questo mi gratifica, perché io ci credo davvero che sia una possibilità. Ecco, quindi porto avanti questa esperienza con grande diciamo umiltà e con grande consapevolezza che anche con un problema così importante si possono raggiungere i propri obiettivi. Professor Cortelli, accompagnare una persona con il Parkinson e quindi la sua famiglia, perché diciamo sempre che quando parliamo di persone che si confrontano con la malattia, che dietro intorno a quella persona c'è un microcosmo fatto, no? Rappresentato dai figli, dalla compagna, dai colleghi, delle persone care, per un medico è una bella sfida, perché sicuramente oggi le terapie a disposizione permettono di gestire meglio la malattia, ma c'è proprio un accompagnamento, un sostegno quasi psicologico, perché la malattia è davvero sfidante, professore. Sì, in realtà in questo aspetto, per esempio quello che diceva Yuri precedentemente, è cruciale, cioè capire che bisogna uscire dalla malattia, considerarla come una parte del sé. Questo vale sia per il paziente che deve lottare con i sintomi, ma anche per quelli che ovviamente vivono con lui, e capire che la stessa sfida che appunto lui a questo punto ha davanti è quella che ha avuto Yuri quando ha dovuto tornare al top Signore degli Anelli dopo che ha avuto l'incidente. Quindi è un modo di affrontare le difficoltà a cui probabilmente non tutti noi siamo dei campioni tra virgolette, e che invece quando la malattia mi colpisce mi obbliga in qualche modo a dover cambiare le proprie visioni per quanto riguarda quello che posso fare e quello che devo fare. perché non bisogna esagerare né a chiedersi troppo. Questo per esempio è una delle cose che con la famiglia discutiamo di più, perché normalmente il partner cerca sempre, come dire, di stimolare, no? E questo fa bene fino a un certo punto, ma però se tu chiedi delle prestazioni che l'altro per forza non le può dare, da diciamo positivo diventi frustrante. Quindi bisogna avere un equilibrio molto delicato, ma che si può ottenere, nel quale però il pivot è il malato, il quale piano piano capisce quello che deve fare, quindi quella famosa attività fisica di cui ci dicevamo prima come prevenzione delle malattie e anche terapia di uno che abbia già la malattia, e però gli altri che ci sono intorno devono anche capire che ovviamente c'è dei limiti che bisogna rispettare. Quindi è una cosa delicata, una cosa che si gioca molto sull'equilibrio, è un'altra, e saper stare in equilibrio è anche una dote da campione, Yuri. L'equilibrio è psicofisico, ma anche proprio l'equilibrio nel mettere, dare l'importanza a tutte le cose nel giusto modo, e soprattutto non chiedersi troppo, ma cercare di andare, di prepararsi come proprio fa un campione quotidianamente. Yuri. Sì, sì, è così, mi ha detto bene il professor Cortelli, cioè da capire che anche se è un po', diciamo, difficile da credere forse, però che nelle grandi criticità poi si possono trovare anche delle opportunità. Certo però che devi avere ridimensionare alcuni obiettivi. Tu insieme abbiamo visto quegli spot meravigliosi in quella conferenza stampa, no? Ti ricorderai, certo. Dove si è visto delle persone che magari hanno trovato una opportunità nuova nel disegno, nel fare delle pitture anche con la malattia, e vengono fuori dei lavori meravigliosi che magari prima non riuscivano a fare come altre attività. Quindi è difficile, però rivedendo alcuni parametri, alcuni anche obiettivi, io credo che davvero si possa, anche con una situazione diversa da prima, raggiungere e sentirsi ancora gratificati, sentirsi utile alla società. È molto importante le persone che ti stanno vicini, però questo è il lavoro che secondo me noi dobbiamo fare. Sì, tutti insieme. Allora, avete un sito, giornataparkinson.it, nella giornata sono stati organizzati tanti eventi, li trovate tutti su questo sito. Professor Cortelli, prima di salutarla, una domanda di Elena che ci scrive: il Parkinson è malattia ereditaria? Casi in famiglia di Parkinson, che cosa devono, come vanno interpretati, e soprattutto possiamo fare qualcosa? Ci sono dei controlli suggeriti o puntare sullo stile di vita, come lei ha sottolineato, e quindi un'attività fisica, un'alimentazione che sia anche ipocalorica e quindi un po' meno calorie? Professor Cortelli. Dal punto di vista scientifico i casi genetici sono importantissimi, esistono, sono una piccolissima parte, sono circa il 5% di tutti i casi, e sono importanti perché appunto hanno permesso di capire quali sono i target delle nuove terapie, perché attraverso gli animali a quali si è trasferito questa anomalia genetica si è potuto trovare delle terapie che un domani potrebbero essere utili, oggi non sono ancora disponibili in farmacia. Però è anche vero che il Parkinson è abbastanza comune, quindi che ci siano dei casi in famiglia non vuol dire che ci sia una trasmissione genetica da uno all'altro. Per cui è chiaro che per saperne di più bisogna studiare bene l'albero genealogico e rivolgersi insomma a un neurologo che possa prendere una decisione su questo campo. Normalmente sono molto pochi i casi veramente, diciamo così, genetici, cioè che c'è un'anomalia del DNA che può essere trasmessa da una generazione a quella successiva. Comunque oggi per la prevenzione, come dicevi tu Nicoletta, abbiamo quello che abbiamo detto: esercizio fisico, stile di vita sano e cercare di mangiare poco e bene. Allora ringrazio il professor Cortelli, ringraziamo Yuri Checchi, Grazie a voi, grazie. Per essere stati con noi, i cortometraggi di cui vi abbiamo parlato potete visitarli al sito dell'Accademia Limpedismov, ce ne sono molto toccanti, i creativi hanno come sempre fatto centro e ci aiutano a parlare, raccontare, vedere la malattia con un altro, da un altro punto di vista. Grazie ai nostri ospiti, noi andiamo a sentire i mercati e poi Deborah. Polizze. Poi torniamo con le polizze di tutela legale, c'è questo nuovo mondo che sta crescendo in Italia, scopriremo perché tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Care Nicoletta e Deborah, in questi giorni stanno scadendo le polizze RC dei mezzi commerciali e delle auto personali, ma mi trovo in grande difficoltà. Da quando è passato il reato di omicidio stradale, le compagnie spingono per far firmare polizze di tutela legale, a copertura delle spese legali in cui si può incorrere in caso di sinistro. Io ho chiesto perché sia necessario stipulare una nuova polizza di questo tipo, quando potrei limitarmi ad aggiungerla come ulteriore garanzia della polizza esistente. La risposta è stata: è troppo limitata, serve una copertura illimitata. Ma illimitata per cosa? Per coprire le spese dell'avvocato in caso di mia colpa in un sinistro grave? Non ho capito nulla, potete fare un po' di chiarezza? E ci proviamo stamattina, abbiamo interpellato due ospiti, prima però salutiamo l'autrice, in realtà una donna, di questa lettera che è Nadia da Crema. Non è potuta intervenire in diretta perché lavora di notte, a quest'ora dorme, ci riascolta appunto proprio in nelle podcast. Repliche notturne, per cui Nadia la salutiamo con affetto, la ringraziamo, tra l'altro ci ha scritto ieri ringraziandoci dell'attenzione che abbiamo voluto riservare a questa sua storia, che ci è sembrata molto interessante perché non si capisce per quale motivo. Adesso conosceremo bene il mondo delle assicurazioni di tutela legale, con tutto il rispetto naturalmente per questi strumenti di protezione. Non si capisce perché le compagnie tradizionali, invece, in sede di rinnovo dell'RC auto, chiedano il contestuale, la contestuale sottoscrizione anche di un'altra polizza, di un'altra garanzia. E allora cerchiamo di capire qualcosa in più con i nostri ospiti di questa mattina. Intanto un grande amico di Cuore e Denari, che è Fabrizio Premuti, presidente dell'Associazione dei Consumatori Consumer, con la K, e finalmente viene qua, visto che balla da una TV all'altra, e quindi veramente per pescarlo è sempre difficile, perché lui va su Rai 3, su tutte le altre TV, ma noi un po' gelose, Fabrizio. Un po' acidine. L'abbiamo voluta qua stamattina. Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori. Ma no, ma io sono particolarmente affezionato a Radio 24 a Cuore e Denari. Bravo. È un gran piacere stare con voi. Adoriamo gli uomini bugiardi. Eccoci qua. Tra l'altro abbiamo fatto proprio di recente una bella puntata sulle bugie. Però insomma, Fabrizio Premuti è uno forse dei massimi conoscitori italiani di tutto il mondo assicurativo, soprattutto per ciò che attiene al tema auto, e quindi ci faremo fare un po' di chiarezza su questa questione appunto posta da Nadia da Crema. Ma naturalmente abbiamo voluto chiamare anche l'industria di categoria, chiamiamola così, quindi la società che per eccellenza in Italia distribuisce, confeziona e polizza di tutela legale. Marco Rossi, direttore commerciale di DAS del Gruppo Generali, benvenuto anche lei, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, noi invece vorremmo tanto affezionarci e quindi essere invitati. Lo so, niente, dovete sforzarvi di essere un po' più famosi e popolari, certo, adesso in qualche maniera. Certo. Se ci risponde bene stamattina noi la inviteremo di nuovo. Guardi, metterò una buona parola con Deborah. Allora, intanto vediamo se piacete ai nostri ascoltatori. Li invitiamo a chiamarci all'800 24 00 24. Il tema è capire se anche a loro è capitata una cosa simile a quella di Nadia. Stavate rinnovando l'RC auto e la vostra compagnia vi ha chiesto di estendere le garanzie da sottoscrivere firmando contestualmente anche una polizza di tutela legale. È buona cosa. Adesso noi non è che la vogliamo demonizzare, vogliamo solo chiarire se che cosa sta succedendo, se è utile termini. E se è veramente concomitante all'approvazione appunto della legge sul reato di omicidio stradale. E quindi potete chiamarci a questo, oppure raccontateci anche se una polizza di tutela legale ce l'avete, quanto spendete in un anno, a che cosa vi è servita, ne avete già utilizzato appunto i benefici. Quindi insomma, microfoni aperti ai nostri ascoltatori. Allora, Premuti, L'Associazione dei Consumatori raccoglie sempre tante segnalazioni da parte appunto dei consumatori. È vero che le compagnie in questo momento stanno facendo, non so, questa proposta, questa sollecitazione indiretta a chi sta rinnovando appunto l'RC auto? Ma intanto io direi che più che le compagnie sono gli intermediari che stanno tentando chiaramente di vendere una garanzia in più con una polizza in più. Ah, perché quindi poi broker, compagnie, se io parlo delle compagnie generaliste, ovviamente il tentativo è sempre quello di includere nella polizza RC auto anche delle garanzie accessorie e tra l'altro con l'assistenza, la tutela legale è una di quelle più presenti. Diciamo subito che quindi non è un discorso delle compagnie, ma un discorso degli intermediari. Chiaro. Che rappresentano alcune compagnie. In questo caso sono sicuramente intermediari che hanno anche un mandato diretto con compagnie specializzate nella tutela legale, quindi compagnie monoramo che fanno solo questo e che quindi da un punto di vista anche della garanzia danno maggior affidamento rispetto all'espletamento di questa particolare certo. polizza, perché poi diciamo la verità, l'Italia, l'abbiamo sempre detto, è un paese fortemente sottoassicurato. Ecco, quindi andare a parlare di un prodotto così frequente, ma così poco conosciuto, frequente perché lo troviamo quasi in tutte le polizze, però poi non lo conosciamo, non sappiamo neanche come rapportarci nel momento in cui questo prodotto potrebbe venirci in soccorso. Oggi la concomitanza col reato d'omicidio stradale è dovuta al fatto che se ne sta parlando molto e se ne sta parlando molto nei termini delle ricadute penali che questo ha. È chiaro che nel procedimento civile la compagnia che ci assicura per la RC auto risponde anche per noi, quindi tutto sommato potremmo sentire poco l'esigenza di un prodotto specifico per la tutela legale, ma quando andiamo sul penale non è più la compagnia che ci garantisce, ma siamo noi, perché chiaramente è personale il penale, dobbiamo garantirci da soli. Eh certo, quindi piuttosto che pagare un avvocato che magari in quel frangente, in quell'emergenza ci costa tantissimo, avessimo avuto la polizza, pagavamo il premio annuale e l'assistenza legale era meno onerosa. È meno onerosa. Assolutamente sì, ma vorrei sottolineare il fatto che non è che prima non ci servisse, perché laddove prima avessimo avuto un incidente con conseguenze penali, il discorso sussisteva lo stesso, quindi oggi ne parliamo perché c'è un reato specifico, poteva essere un aggravante della vecchia legislazione, poteva essere comunque un omicidio colposo, come era considerato fino a qualche tempo fa, avremmo comunque avuto bisogno di ricorrere all'assistenza di un legale per il penale, probabilmente anche all'assistenza di periti per ricostruire la dinamica dell'incidente o medici legali per andare a individuare quali sono le cause della morte nell'incidente stradale di un terzo, e tutte queste spese ovviamente pesano in un bilancio di una famiglia. E questa copertura le copre? Le copre assolutamente sì. Certo. Allora facciamoci spiegare bene come funziona questa polizza da Marco Rossi, come vi dicevo, direttore commerciale di DAS, Gruppo Generali, una compagnia leader nella distribuzione di queste coperture assicurative. Però Rossi, noi adesso abbiamo la pausa, devo sentire cosa succede sulle strade italiane. Prima di farle spiegare il funzionamento della polizza di tutela legale, costo, servizi e quant'altro, le chiedo un commento veloce sul presupposto del nostro programma, la lettera che ci ha mandato l'ascoltatrice. Sì, allora intanto io ritengo piuttosto auspicabile che da parte degli intermediari ci sia una proposta sempre abbinata a una polizza di responsabilità civile legata alla circolazione stradale, per le ragioni che peraltro ha appena esposto Fabrizio Premuti, ovvero per tutti i rischi ulteriori che si corrono evidentemente quando si circola per le strade. Il rischio penale è sicuramente di essere coinvolti, quindi in un procedimento penale è sicuramente un rischio oggi ancor più sentito e sicuramente molto più serio di prima, viste le sanzioni che si sono aggravate moltissimo. E visto oltretutto il rischio appunto di esserne coinvolti anche quando si è innocenti o comunque quando vi sono concorsi di colpa. In questi casi una buona polizza di tutela legale che copre quindi da tutte le spese legali e da tutte le spese di giustizia è fondamentale anche appunto peraltro per ricostruire la dinamica dell'incidente, quindi nel caso in cui vi fosse la necessità anche di sostenere delle spese di perizia è fondamentale appunto per certo. ricostruire. Rossi, d'altronde lei che cosa ne poteva parlare solo bene le necessità della sottoscrizione di questa polizza. Il tema è capire appunto se è corretto un atteggiamento di spinta di questo prodotto, proprio per il fatto che, essendo passato questo reato, come dicevo prima, si fa adesso un pochino di terrorismo psicologico nei confronti della clientela. Insomma, io la metto un po' così, con un po' di malizia. Detto questo, adesso maliziosamente, ma non tanto, devo andare al traffico, poi ritorniamo con voi. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. Eccoci ritrovati insieme questa mattina con i nostri ospiti, Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, con la K per chi volesse informazioni su questa associazione dei consumatori, e Marco Rossi, direttore commerciale di DAS, una società appunto che in Italia confeziona e distribuisce polizze di tutela legale. Stiamo parlando di questo mondo partendo dal caso segnalato da un'ascoltatrice che ci ha detto: in fase di rinnovo delle polizze RC dei mezzi commerciali, probabilmente della sua attività o delle auto personali, si è trovata una proposta contestuale da parte del proprio intermediario, che ha detto: visto che è passato il reato di omicidio stradale, devi sottoscrivere anche una polizza di tutela legale che ti coprirebbe da tutte le necessità legali, di perizie, eccetera, qualora appunto fossi mal capitato protagonista di un evento di questo tipo. Allora abbiamo provato a capirci qualcosa di più. Premuti ci ha detto: sì, gli intermediari, non le compagnie, è abbastanza probabile che, rappresentando più società, spingano per più coperture per i loro clienti. E poi stavamo cercando di capire effettivamente tutte le coperture garantite da questa polizza. Marco Rossi, torno da lei, ci può fare un preventivo volante in diretta? Quanto costa una polizza di questo tipo per una famiglia di composizione media, che ne so, 4 persone, un capofamiglia che lavora, due figli, non so, una cosa molto, allora, molto media, insomma, statisticamente certo, parlando. Se rimaniamo nell'ambito della circolazione stradale, una polizza che può comprendere tutti i veicoli della famiglia si aggira tra i 70 e i 90 euro, quindi con una spesa veramente minima per tutta la famiglia si copre da un rischio molto serio. Tutti i veicoli e tutti i componenti del nucleo familiare che evidentemente sono dotati di patente e quindi possono guidare un veicolo. È chiaro che se poi ci si spinge su coperture invece che escono dal mero alveo della circolazione stradale per riguardare invece la sfera della vita privata e tutto ciò che ne attiene, pensate solo alle liti con i vicini. Ma quella è la responsabilità civile del capofamiglia, è la stessa cosa? Che differenza c'è o no? No, è una differenza notevole, perché sia in questo caso come nel caso della circolazione stradale, intanto la polizza di responsabilità civile è una polizza che, appunto, lo dice la parola stessa, tutela l'ambito civile, la sfera civile. E soprattutto per i danni cagionati a terzi. Per quel che riguarda la tutela legale, invece, si parla anzitutto di sfera penale, quindi di spese legate a procedimenti penali che non sono mai coperte dalle polizze di responsabilità civile, oltre a coprire invece la fattispecie in cui il componente della famiglia, la persona fisica, diventa parte attiva di una vertenza, quindi deve promuovere una vertenza verso una terza persona che abbia cagionato danno a lui. Quindi, per fare un esempio, Rossi, se vivo in un condominio particolarmente litigioso dove si chiama l'avvocato ogni 2x3, secondo lei una copertura di questo tipo serve, o si deve addirittura arrivare a voler uccidere il vicino di casa rumoroso che fa la lavatrice tutta la notte per, come dire, suggerire un po' una copertura di questo tipo? Adesso voglio estremizzare, ovviamente, però quali casi al di fuori appunto della circolazione stradale è bene coprire, allora, secondo lei? Guardi, una buona polizza, per esempio, per l'ambito familiare, copre non solo la conduzione dell'abitazione privata, ma potrebbe coprire, per esempio, anche le seconde case, anche le seconde case date in locazione, quindi le eventuali vertenze con i condomini. Ma che in Italia finiscono quasi sempre da un avvocato, perché mentre in America se non si paga un affitto arriva lo sceriffo e ti butta fuori molto brutalmente, qua da noi invece è tutto molto più complicato di fare un'azione in più, e soprattutto tutta la sfera contrattuale. provate a pensare per esempio anche ai lavori che si fanno in una casa, lavori normali, che so, l'intervento di qualche professionista, un idraulico, un elettricista. Ecco, in tutti questi casi, laddove vi fosse un lavoro mal fatto o comunque un inadempimento da parte del professionista, è chiaro che questa polizza può essere attivata, certo, per far valere le faccio sentire cosa è successo ad Emanuela da Modena, che una polizza di questo tipo ce l'ha, ma Emanuela, mi pare di capire che non ha potuto sfruttarne i servizi fino in fondo. Perché? No, perché ho sottoscritto questa polizza, poi ho fatto questo incidente dove io ero la parte lesa e ho scoperto che la polizza era valida solamente se fossi andata in tribunale e non attraverso una conciliazione con l'altra assicurazione. Grazie Emanuela. Poi non è finita, sì. Dopo ho dovuto trovare un altro avvocato, ho dovuto cambiare avvocato perché quello non era abbastanza incisivo sui danni che avevo avuto, ho dovuto pagare 1.200 euro che l'altro avvocato mi ha detto che l'assicurazione non me li rimborserà. Certo. Rossi, non è che qua siamo al mondo delle clausole famose, no, che non leggiamo subito, naturalmente il consulente non ce le spiega, ma oggi da una parte per alleggerire i tribunali si portano le persone a conciliare, a patteggiare eccetera, dall'altra parte poi insomma spingete giustamente per queste coperture e poi ecco che le clausole sono subito lì dietro l'angolo. Velocemente, che ne pensa del caso di Emanuela? Ma, allora, ovviamente qui bisognerebbe conoscere le condizioni del contratto che Emanuela ha sottoscritto. Le dico però che per esempio i nostri contratti invece contemplano sempre la conciliazione, quindi tutte le fasi di conciliazione e mediazione, oltre che di arbitrato, per cui tutte le spese necessarie sostanzialmente ad una composizione veloce della vertenza, perché una delle nostre dei nostri obiettivi principali è quello di risolvere velocemente il problema al cliente. L'avvocato è sempre fornito da voi, non lo possiamo scegliere noi? No, allora qui noi siamo, diciamo, perché io ce ne ho una che caldeggia. Bene, no. Spero che ce l'abbia con noi. No, va bene, dopo glielo racconto in privato. Va bene. Veloce che stiamo chiudendo, Rossi. Sì, no, guardi, allora, la libera scelta è sempre garantita nelle fasi giudiziali, quindi tutte le polizze di tutela legale devono garantire la libera scelta in quelle fasi, quindi quando si va davanti a un giudice. Nel nostro caso tutte le fasi antecedenti il giudizio, quindi tutte le fasi negoziali, sono invece da noi gestite e questo perché noi siamo riusciti attraverso una gestione diretta e molto negoziale, tenga conto che noi abbiamo tutti i mediatori professionisti tra i nostri assistenti legali, oltre che un network di legali molto capillare in tutta Italia, attraverso questo sistema, le dicevo, siamo riusciti a triplicare i tassi di successo a favore delle vostre vertenze. Insomma, con l'omicidio stradale, purtroppo dico io, per certi versi, per fortuna per voi, siete destinati a crescere, però mi raccomando, massima trasparenza nei confronti degli assicurati. Non riesco a far fare la chiusura a Fabrizio Premuti, ma lo richiamiamo sicuramente presto con le sue preziosissime consulenze. Noi intanto, Nicoletta, abbiamo terminato. Andiamo, ma torniamo. Segnalo che anche domani parlerò di assicurazione ad investire informati, ma le assicurazioni come forma di investimento, le assicurazioni index e unit linked, che sono molto complesse per i nostri ascoltatori, quindi puntata dedicata. Grazie, a domani.